Stai ascoltando Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione sul carcere e sui dintorni, dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, tutti sabato pomeriggio dalle 18 alle 18.30, questa è Mezz'ora d'aria. Bentornate a tutte e a tutti e in special modo alle detenute e detenuti della Dozza a Mezz'ora d'aria su Radio Città Fujiko 103.1. Oggi vi proponiamo i contributi che ci arrivano dalle compagne della rete anticarceraria di Bologna, una rete formatasi a seguito delle rivolte che a inizio marzo hanno investito una quarantina di carceri italiane, tra cui la Dozza di Bologna. Rivolte che anche come Mezz'ora d'aria abbiamo ovviamente seguito da vicino e su cui vi abbiamo dettagliatamente informato nelle scorse settimane. Queste rivolte, nate dal panico rispetto al rischio di contagio tra i reclusi e alle ulteriori restrizioni imposte ai prigionieri come la sospensione dei colloqui con i familiari, hanno riportato come tragico risultato la morte di ben 14 detenuti, senza contare i feriti e i trasferimenti punitivi che sono seguiti. Spontaneamente è quindi nata la rete cittadina anticarceraria, mossa dall'esigenza sentita sia dalle singole soggettività che da associazioni di sostenere le ragioni di queste rivolte e di rilanciarle dal fuori, mantenendo viva l'attenzione pubblica su quanto avviene dentro e offrendo un sostegno sia morale che materiale ai detenuti e alle detenute che continuano a versare in una condizione allarmante e preoccupante. A tal fine la rete si sta muovendo con diverse iniziative, di cui i contributi che vi faremo ascoltare oggi fanno il punto e ci offrono un resoconto. Come Mezz'ora d'aria noi sosteniamo pienamente il lavoro della rete e ci uniamo ancora una volta all'appello, sostenuto anche da tutta la rete anticarceraria, per una liberazione immediata dei reclusi come unico atto davvero efficace affinché le prigioni non si trasformino in lazzaretti e affinché la morte annunciata per Covid-19 di Antonio Succato, detenuto di 76 anni della Dozza, non diventi il primo di un elenco che potrebbe aumentare tragicamente. Partiamo ora con i vari contributi che sono appunto arrivati dalle compagne della rete anticarceraria. Il primo intervento appunto ci presenterà questa rete bolognese che ha organizzato varie iniziative e che sta continuando in varie attività a sostegno dei detenuti. Ricordiamo che le foto della giornata di solidarietà del 9 aprile organizzata con striscioni e cartelli e i comunicati sono visibili su oltrecarcere.noblogs.org. Ciao a tutti e a tutte le ascoltatrici di Mezz'ora d'aria e in particolare un saluto alle detenute e ai detenuti in ascolto. Speriamo che la nostra voce possa arrivare anche a voi e superare i muri che ci dividono. Allora, la rete bolognese anticarceraria si è formata in seguito alle rivolte scoppiate a inizio marzo alla Dozza e in altre 40 carceri italiane. E il nostro obiettivo è principalmente dare un sostegno alle rivendicazioni delle detenute e dei detenuti. Il giorno in cui si sono scatenate le rivolte, infatti, ci siamo trovati in presidio solidale e spontaneo davanti al carcere della Dozza, mentre nella notte prima eravamo stati svegli a seguire la conta dei morti che da Modena a Rieti saliva di ora in ora. Ecco, in quell'occasione in presidio ci siamo dette che la solidarietà che da fuori potevamo portare alle detenute non poteva finire quel giorno, anche perché la repressione nei confronti di chi si era ribellato avrebbe certamente avuto delle conseguenze che dovevamo tenere d'occhio. La rete anticarceraria bolognese è fatta da singole persone, da gruppi più o meno organizzati e da associazioni, in realtà anche diverse tra di loro, ma che cercano di coordinarsi per un unico fine, cioè per dare voce alle richieste della popolazione detenuta. Domiciliari, indulto, amnistia, salute e dignità, ma soprattutto libertà per tutti e tutte. Come rete siamo determinate a fare luce sulle morti, una strage di Stato archiviata frettolosamente sui media mainstream come Overdose, ancora prima che fossero usciti i nomi o che si fossero effettuate le autopsie. Noi seguiremo e faremo pressione perché una strage senza precedenti come questa, senza precedenti negli ultimi decenni, non passi sotto silenzio. Alle 14 morti legate all'emergenza del Covid si aggiungono poi le 17 morti per suicidio dall'inizio dell'anno e tutte le morti di carcere quotidiane. Tutte morti trasparenti, morti senza nome. Morti perché il carcere fa solo questo, uccide. Come rete noi ci poniamo l'obiettivo di creare momenti di dibattito trasversali che siano aperti a singoli, a realtà e collettivi, ad associazioni, relativi a carcere e istituzioni totali. La nostra prospettiva di rete è abolizionista, quindi totalmente contro il carcere. Quello che vorremmo poi è riportare il tema alla collettività, rompere il filo spinato dell'omertà che avvolge queste istituzioni, perché quello che succede dietro quelle mura riguarda tutte e tutti. Ecco, quindi nel concreto giovedì 9, prendendo spunto da un'iniziativa nazionale che si è tenuta il 1º aprile, abbiamo promosso una giornata di solidarietà, invitando tutti e tutti a esporre dai loro balconi degli striscioni, dei cartelli, delle scritte in solidarietà con le persone detenute alla Dozza e in tutte le altre carceri e in tutti gli altri centri di detenzione, tra cui non dimentichiamo i CPR, per dare eco e voce alle loro lotte, alle loro richieste di amnistia, di indulto, di libertà e di tutela della salute. L'iniziativa è nata veramente dal basso in modo spontaneo e ha raccolto una enorme partecipazione da parte di singole, singoli realtà, associazioni, spazi sociali, eccetera. Ci sono arrivate più di 100 foto con striscioni, cartelli scritte sui muri, sia da Bologna ma anche dalle altre città come da Parma, da Trento, eccetera. E insomma le strade, le facciate, i quartieri sono stati travolti dalla solidarietà e dalle richieste di salute, di indulto, di amnistia e di libertà per tutte. Noi crediamo che queste rivolte di inizio marzo siano riuscite ad aprire una crepa e una breccia, una crepa definitiva su un'istituzione repressiva sull'orlo del collasso, dove abusi e deprivazioni sono sempre stati all'ordine del giorno, e una breccia nella collettività e nella società civile che sta avendo l'opportunità di comprendere che cosa significhino quelle mura. Ecco, la nostra intenzione è continuare a tenere alta l'attenzione e non lasciare sole le persone detenute, con l'obiettivo di un mondo oltre il carcere, di un mondo senza carceri. Il secondo contributo ci darà una breve panoramica sulle lotte in Italia delle persone detenute nell'ultimo mese, con gli ultimi aggiornamenti. Proviamo a fare una breve panoramica per quanto possibile delle lotte delle persone detenute nelle carceri nell'ultimo mese. Nei primi giorni di marzo viene emanato il decreto ministeriale che rende l'Italia un'unica grande zona protetta, limitando gli spostamenti e istituendo restrizioni alle libertà individuali e collettive, in risposta alla diffusione del Covid-19, un decreto che tocca anche le carceri. Sono infatti sospesi i colloqui, che potranno, dove possibile, svolgersi in videoconferenza, i permessi premio, i regimi di semilibertà. Anche le udienze vengono sospese. Inizialmente il blocco è previsto fino al 31 maggio, notizia smentita nei giorni seguenti. Queste misure erano già state adottate da tutte le carceri di Lombardia e Veneto a partire dal 2 marzo. Il 7 marzo la rabbia dei prigionieri del carcere di Salerno esplode. Scoppia una rivolta che coinvolge circa 200 persone. Un'intera sezione viene devastata e i prigionieri salgono sul tetto. Chiedono di sottoporre tutta la popolazione carceraria a tamponi per il test sul coronavirus e di accedere a misure alternative al carcere. Dal 7 al 9 marzo le rivolte prendono piede in circa 30 carceri italiane. Inoltre 40 detenuti mettono in atto battiture e proteste di vario tipo. A Modena, Bologna e Rieti il carcere uccide. Muoiono 14 persone. La verità di Stato parla di overdose, ma è di carcere che si muore. A Frosinone e Foggia diversi detenuti riescono ad evadere. Alcuni verranno successivamente catturati o si costituiranno. Dopo il 9 marzo, insieme alle restrizioni e divieti dati dall'emergenza Covid, le rivolte e le evasioni delle carceri si diffondono in tutto il mondo. La reazione dello Stato a tutto questo è il pugno di ferro. I prigionieri vengono massacrati di botte e trasferiti, lasciati senza luce e senza pacchi dai parenti, come ad esempio hanno riportato con insistenza i familiari dei detenuti di Opera a Milano e di Melfi. La dirigente della polizia penitenziaria, Daniela Caputo, inneggia addirittura il 41 bis fino a fine disordini per tutte le carceri coinvolte. Solo alcuni giorni dopo le rivolte, i colloqui vietati vengono sostituiti in alcune carceri con chiamate o videochiamate. Ma le misure di prevenzione richieste per lo più non vengono applicate, anzi, vengono temute, come nel caso del carcere di Bologna, dove il responsabile di medicina penitenziaria dell'ASL, Roberto Ragazzi, dispone che il personale sanitario interno al carcere non indossi le mascherine, poiché l'adozione dei dispositivi sanitari, quali mascherine e guanti, avrebbe rischiato di far crescere nuovamente la tensione tra i prigionieri. Fino al 13 marzo, quando vengono riscontrati i primi casi positivi tra medici e infermieri, questa disposizione resta in vigore. In molte altre carceri l'atteggiamento è lo stesso e la rabbia dei detenuti cresce. Pochi, troppo pochi, vengono fatti uscire agli arresti domiciliari o con pene alternative e il beneficio è concesso ai detenuti che devono scontare una pena inferiore ai 18 mesi, qualora abbiano un domicilio. Facile a dirsi. Il decreto stabilisce inoltre una serie di categorie di prigionieri escluse dalle pene alternative: chi ha condanne elevate, chi ha reati ostativi, chi è considerato delinquente abituale, professionale o per tendenza, chi è sottoposto a regime di sorveglianza particolare, chi nell'ultimo anno è stato sanzionato per infrazioni disciplinari e chi ha ricevuto rapporti in quanto coinvolto nei disordini e sommosse a partire dal 7 marzo. Tutto questo evidenzia come per le istituzioni negare la salute a certi prigionieri sia un'ulteriore forma punitiva, come se il contagio non dovesse riguardare certi prigionieri. E anche i locali rappresentanti delle istituzioni, proprio come nel caso del Consiglio Comunale di Bologna, plaudono all'attuazione di queste direttive aberranti. Nel frattempo continuano le proteste. Scioperi della fame iniziano a Civitavecchia, Poggioreale, Salerno, Chieti. Scioperi dei detenuti lavoranti, del vitto e del sopravvitto, e rifiuto di entrare dall'aria. Anche fuori, seppur con tutte le difficoltà e le limitazioni del caso, parenti e solidali continuano a farsi sentire. Blocchi del traffico a Napoli, Roma e Palermo. A Roma e Bologna viene sottolineata anche la responsabilità del DAP per l'assenza di risposte adeguate all'emergenza sanitaria nelle carceri. Nel primo caso, alcuni parenti e solidali si sono recati sotto gli uffici del DAP per protestare. A Bologna, invece, a quanto riportano i giornali, mentre era in corso la rivolta alla Dozza, sono state danneggiate le vetrate della sede regionale dell'amministrazione penitenziaria e lasciate scritte in solidarietà con i detenuti in rivolta. Il 2 aprile è morto il primo detenuto del carcere della Dozza, risultato positivo al Covid. Altri casi di detenuti positivi vengono riscontrati in diverse carceri d'Italia nei giorni successivi e le proteste dei prigionieri riprendono con forza. A Santa Maria Capua Vetere, il 6 aprile, dopo che tre detenuti sono risultati positivi al Covid, i prigionieri hanno iniziato una rivolta durata dalla mattina fino a tarda notte. Così a Secondigliano, dove sono ricominciate le battiture con il sostegno dei parenti fuori dalle mura. Anche a Poggioreale, mentre dentro il carcere continuavano le battiture, parenti e solidali all'esterno bloccavano la strada per poi continuare la protesta al tribunale. I media ufficiali hanno raccontato le rivolte come momenti di follia, di barbarie. Quello che c'è chiaro qui fuori è che quei momenti vanno letti al di là dell'ottica emergenziale, perché rappresentano l'esplosione di una rabbia ben più profonda, radicata nella violenza legalizzata che è costretto a vivere sulla sua pelle ogni giorno chi sta rinchiuso in carcere, e non solo al momento dell'emergenza coronavirus. Quiero ser libre, libre, libre, quiero ser, quiero ser. partió llorando, igual que si fuera un niño. Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser, quiero ser. Il terzo intervento delle compagne ci presenterà la situazione insostenibile del carcere bolognese della Dozza. Un caloroso saluto a tutte le detenute e i detenuti del carcere della Dozza. Mentre il silenzio è calato sulle rivolte, a Bologna il 12 aprile al carcere della Dozza è morto il primo detenuto per Covid-19. Vincenzo Sukatov ha 76 anni e varie patologie pregresse. Faceva dunque parte di quelle categorie a rischio che andavano maggiormente salvaguardate. I domiciliari in nosocomio gli venivano concessi in terapia intensiva, evidentemente troppo tardi. Il giorno successivo sui giornali, con un tentativo veramente schifoso di autosoluzione e scarico di responsabilità, il DAP si affrettava a dire che la persona non era più in carico al carcere bolognese. Era costretto a letto, non aveva nemmeno le possibilità fisiche per alzarsi, hanno riferito alcuni operatori e operatrici che vogliono rimanere anonimi. La sua morte ha portato allo scoperto l'incompatibilità della condizione detentiva con il rispetto del diritto alla salute e dal soccorso tempestivo in caso di emergenza. Il carcere, e la Dozza non fa eccezione, è l'antitesi della prevenzione e cura per condizioni igienico, per sovraffollamento, per una sanità penitenziaria già inadeguata in condizioni normali. Il 29 marzo un sindacato della polizia penitenziaria denunciava la positività di 9 medici, 15 infermieri e 2 agenti in servizio alla Dozza. Ma come poterlo sostenere se il 90% di loro non è mai stato sottoposto al tampone? Pochi giorni dopo, il 31 marzo, una nota della direzione del carcere resa alla Camera Penale di Bologna fa riferimento al fatto che già il 13 marzo si sono iniziati a conoscere i primi casi di contagio tra il personale sanitario e penitenziario. Non è possibile avere informazioni chiare davanti a un muro di omertà. Si inseguono i giornali, si raccolgono le notizie, si mettono insieme i pezzi, raccogliendo le testimonianze e le istanze pervenute alle avvocate e le voci dei detenuti e delle detenute dei familiari e dei familiari. Dopo le rivolte, 3 piani della sezione giudiziaria maschile sono stati resi inagibili e ci sono stati i primi trasferimenti punitivi verso altre carceri. Per giorni ai familiari è stato impedito di ricevere notizie sui propri cari o verso dove erano stati trasferiti. Dalle poche notizie trapelate si sa che per chi ha partecipato alla rivolta ci sono stati pestaggi e isolamento. La prima settimana sono stati lasciati reclusi nell'area distrutta, dove erano rinchiusi 24 ore senza ora d'aria, con cibo scarso e non venivano fatti entrare né pacchi né soldi. Ad oggi sembra siano ripartiti i colloqui telefonici con i familiari, ma non vi è conferma che siano attivate le videochiamate via Skype come previsto dal decreto. Sembra siano state consegnate alcune mascherine, ma le celle sono affollate e che tra il personale sanitario e penitenziario ancora non tutti utilizzano i dispositivi di protezione individuale. Le condizioni igienico-sanitarie sono pessime, ancora non sembra essere stata ripristinata l'ora d'aria nell'ingresso dei pacchi e dei soldi. Il 6 aprile si apprende che la sezione di AS della Dozza è in fase di smantellamento. Pochissimi hanno potuto godere delle misure alternative e ad oggi ci sono stati solo trasferimenti e deportazioni, che hanno messo soltanto più a rischio la popolazione detenuta, amplificando le possibilità di contagio. Sono scelte scellerate verso destinazioni spesso peggiorative, come quelle verso il carcere di San Gimignano, scelta non solo vessatoria per detenuti e familiari, ma anche pericolosa. E di pochi giorni fa la notizia del trasferimento di un detenuto asintomatico nel carcere di Bologna, proprio a San Gimignano, dove alla prova del tampone è risultato positivo, generando comprensibile paura anche nel penitenziario toscano. A più piani si gioca sulla differenziazione prevista dal decreto e ribadita da molte istituzioni, per cui chi ha pene più alte, condanne per determinati reati o ha partecipato alle rivolte può essere sacrificabile. Mentre la Solidarietà Bologna ha già messo a disposizione 2 appartamenti per accogliere i detenuti che potrebbero beneficiare dei domiciliari ma non hanno casa, dalle istituzioni bolognesi emerge l'idea di sottrarre ai senza tetto l'accoglienza con la fine dell'emergenza freddo prorogata al 30 aprile e di metterci detenuti che potrebbero beneficiare di misure alternative ma non hanno una casa, col progetto di finire in un dormitorio. Fondi, strutture che spostano, travasano senza cambiare la sostanza. come quella di svuotare il CPR a Milano per metterci senza tetto. Ma di cosa parliamo quando il dormitorio a Bologna è costruito accanto al carcere? Una scelta urbana che da sola racconta la precisa volontà di escludere e condannare. Le rivolte nelle carceri di tutta Italia di questi giorni mostrano chiaramente che in situazioni di emergenza i primi che ne fanno le spese sono coloro che ogni giorno vivono le condizioni peggiori, gli stessi che tuttavia hanno deciso di ribellarsi e di scatenare rivolte per far emergere ciò che il carcere è quotidianamente. Non è solo nel momento di eccezione che la galera ci appare come qualcosa di inaccettabile che va distrutto, ora semplicemente qualcuno ha avuto il coraggio di tirare fuori questa realtà ribellandosi con decisione. Non crediamo sia possibile mai, ma a maggior ragione di fronte a tutto ciò, limitare le prese di posizione e la richiesta di amnistia per alcuni, lasciando che gli altri prigionieri rischino quotidianamente l'isolamento e la morte nelle infami galere. Quarto e ultimo contributo della rete sulla campagna che sosteniamo a gran voce sull'amnistia sociale e il progetto Facciamoli Uscire. Provo a dire sinteticamente come ci si sta muovendo per affrontare l'emergenza carcere, che già era emergenza prima di questa novità del coronavirus, e le testimonianze che mi hanno preceduta danno chiaramente il segno di cosa sia diventata ora e cosa sarà domani. Si è cercato di mettere in sinergia, di coordinarsi con tutte le risorse già esistenti in termini di associazioni, gruppi organizzati e individualità che a vario modo già si occupavano di carcere. Parliamo di iniziative che vanno dalla costruzione di una rete nazionale che già da tempo agiva in termini di controinformazione, di sostegno legale, di comitati di familiari, di azioni dirette sotto le carceri e di azioni di solidarietà concreta con i detenuti. Per quanto riguarda in particolare la rete nazionale, insieme alla partecipazione attiva di alcuni avvocati, abbiamo fatto partire un indirizzo unico a livello nazionale che è emergenzacarcere@gmail.com per la raccolta di tutte le segnalazioni arrivate da detenuti e familiari subito dopo le rivolte. Abbiamo inviato esposti e lettere di richiesta di informazioni su trasferimenti e stato di salute delle persone detenute, indirizzate ai garanti, ai direttori delle carceri, al fine di dare un segno chiaro che non sono lasciati soli e che il modo in cui vengono trattati e lasciati morire i detenuti in questo paese ci riguarda tutti. Abbiamo fatto partire un appello per l'amnistia, che proprio per sottolineare questo concetto che riguarda tutti, contiamo di sottoporre ad una platea più ampia di soggetti, perché riteniamo sia l'ora in cui ciascuno prenda la parola contro questa pandemia penalistica di uno Stato che pensa solo a rinchiudere il disagio sociale e a reprimere il dissenso attraverso il carcere. Chiaramente questa richiesta di amnistia non vuole assolutamente essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza e un punto soprattutto fra le tante iniziative che è necessario mettere in atto. Però riteniamo fondamentale mettere in risalto un concetto importante, che i morti, i feriti, i trasferiti causati da queste sommosse e le relative ritorsioni contro i detenuti individuati come rivoltosi ci urlano che non si può più attendere, che è inderogabile ora una decisione che serva realmente a svuotare le carceri e le strutture detentive per stranieri. È proprio questo il momento, non solo di parlare di un provvedimento di amnistia, ma di adottarlo e farlo subito. Per questo riteniamo che un provvedimento di amnistia riguarda tutti, nell'immediato oggi chi rischia di morire in cella e nel prossimo domani chi rischia di ritrovarsi in carcere come unica risposta ai problemi sociali che questa ennesima crisi è destinata ad inasprire. È un provvedimento provvedimento urgente che riguarda tutti, perché, come dicevo prima, il modo in cui questo Stato gestisce, tratta e lascia morire i detenuti nel carcere è una cosa che deve riguardare l'intera società. In ultimo, ci tenevo a far presente un altro progetto, un'altra iniziativa che è stata denominata con un appello rivolto a tutta la rete solidale dal nome Facciamoli Uscire, perché abbiamo ritenuto fosse urgente anche dare un segno concreto di solidarietà, e in particolar modo ci siamo concentrati su dare la possibilità ad alcuni detenuti che potrebbero godere nell'immediato di un provvedimento di carcerazione alternativa al carcere e non ha la disponibilità di un domicilio dove poterli scontare. Per questo motivo è stato possibile reperire un appartamento, che forse diventeranno due, per dare l'opportunità, seppure a poche unità di detenuti, e sostenerli chiaramente anche sotto il profilo economico. Per questo motivo è stata aperta questa campagna e questa cassa di solidarietà. Purtroppo in questi giorni è venuto a mancare un caro compagno, Salvatore Ricciardi, un uomo che con la sua forza e le sue lotte dentro e fuori dal carcere ha lasciato un segno in tutti noi. Un grande abbraccio va ai suoi familiari. E ora leggerò un caro, carissimo saluto a Salvatore di Sant'Enotar Nicola. Salvatore, giorni fa mi ha telefonato Paolo, mi ha informato della tua caduta e delle tue condizioni, le tue tribolazioni. Hai sofferto molto, lo so, lo immagino. Quelle ferite sono insopportabili, come la galera con i suoi isolamenti, la sua ferocia e la sua inutilità. E mi colpisce ancora il modo in cui sei caduto, ma non c'erano compagni più giovani per fissare lo striscione? Conosco il meccanismo, è la scuola che ci ha formati, anticipare chiunque e comunque, a costo di rompersi, e così è stato per te. Il virus mi impedisce molte cose, avrei voluto accompagnarti e intanto parlarti e ricordarti la finestrella della tua cella nel carcere di Cuneo, dove si vedeva tutto il Monviso innevato. La nostra montagna perfetta, l'amore nascosto ai guardiani. Anche per questo accettavo l'invito per la cena quando era possibile la socialità, e con essa ricordi della militanza, la tua e dei tuoi compagni. Mi sento assai povero, mi manca Prospero, mi manca Angelo Basone e Picchiura, Vic e tanti altri. Un elenco triste, restano i tuoi scritti che divulgheremo. Sai, da tempo mi è caduto addosso il silenzio, non sono più il grafomane di un tempo, e anche le poesie sono rare. Osservo, ascolto e taccio, sicuro, è l'età. Buon viaggio, compagno, grazie di tutto. Appena libero dal virus, voglio raggiungere il Monviso per un saluto speciale, per te e per me stesso. Sant'Enotar Nicola.